siamo qua con il maestro Franco Lorenzoni, maestro elementare e collaboratore di Internazionale, per cui ha scritto una serie di articoli molto interessanti che vi consigliamo di leggere. Benvenuto. Grazie, Ciao saluto a voi. Franco. Dove ti trovi in questo momento? Sono in Umbria, nella casa laboratorio di Cenci, dove abito e dove lavoro, faccio il mio secondo lavoro, diciamo. Il secondo lavoro che parlaci brevemente del tuo secondo lavoro, insomma. Da 40 anni fa ho fondato questa casa laboratorio dove facciamo attività educative, campi scuola con i ragazzi, facciamo formazione con gli adulti, attività artistiche, insomma, ospitiamo vari gruppi, una casa laboratorio per l'appunto. Fantastico. Ti invidiamo, vorremmo essere lì con te sicuramente, anziché qua a Milano, perché deve essere un posto incredibile. Noi abbiamo scelto di aprire questa puntata dedicata alla scuola con il tuo intervento, a parte perché abbiamo letto i tuoi articoli e ci sono piaciuti moltissimo. E volevamo sapere da te innanzitutto. Che cosa è successo in questi mesi in cui per forza di cose l'educazione è dovuta avvenire a distanza e con nuovi mezzi? E che cosa ci ha fatto capire questo periodo di educazione a distanza forzata del nostro sistema scolastico e quali problematiche sono sorte da questa situazione? Allora, è successo di tutto, cioè veramente tantissime cose molto contraddittorie tra loro. Dobbiamo partire dalla peggiore, cioè il fatto che circa il 20%, un bambino, un ragazzo su 5 è rimasto totalmente scollegato e dunque per 3 mesi ha interrotto ogni rapporto con la scuola. Questo è un dato triste, ma è molto forte, evidente, dovuto alla difficoltà di avere delle connessioni, al costo della connessione, spesso a non avere dei device, diciamo, dei computer, dei tablet per potersi collegare. E questo è il primo dato. E gli altri dati riguardano un'esperienza totalmente nuova, vissuta da bambini e ragazzi che sono trovati a fare scuola da casa. Quindi, diciamo, una specie di invasione della scuola con i suoi riti, le sue proposte, le sue bizzarrie, diciamo, dentro la casa dei ragazzi e anche, diciamo, il fatto che i bambini sono entrati nella casa dei loro insegnanti. Quindi c'è, diciamo, un rapporto molto alterato che ha prodotto anche cose interessanti. Per esempio, gli insegnanti, molti insegnanti sono accorti di alcune cose che non sono i loro ragazzi. A partire alcuni appunto dal fatto che non avessero dispositivi e quindi quando il Ministero ha stanziato 85 milioni per promuovere, diciamo, in qualche modo un sostegno, fare avere tablet, insomma, ai bambini che non le avevano, sono stati gli insegnanti che hanno dovuto capire chi è che non le aveva, perché hanno dovuto collaborare con operatori di terzo settore, con famiglie, insomma c'è stata una sorta di immersione sociologica, diciamo, da parte degli insegnanti, i quali non potevano non occuparsi di altri aspetti dei loro ragazzi che in alcuni casi non conoscevano, in altri sì, naturalmente. E poi c'è stata questa esposizione allo schermo pazzesca, insomma, nel senso che i bambini passavano ore, già li passano, diciamo, nei loro normali giochi, i giochi virtuali, elettronici sono molto presenti nella vita dei bambini e dei ragazzi. E però in questo caso c'era anche lo studio che era in digitale e questo naturalmente ha comportato molti problemi, alcune difficoltà e alcune scoperte. Perché va detto anche che per esempio c'è stata una frequentazione del web da un punto di vista diverso, appunto non quello del gioco, anche interessante, insomma, perché Certo. il web è, diciamo, un territorio di apprendimento informale straordinario. Purtroppo anche questo è discriminatorio, nel senso che chi ha più cultura, chi ha più domande, chi ha più capacità di cercare, riesce a trovare tantissimo. Chi ne è solo passivo consumatore rischia di fermarsi lì, insomma. Certo. Nel tuo articolo, sempre che hai scritto settimana scorsa, diciamo uscito settimana scorsa per Internazionale, contro la pigra ingiusta pretesa di dare voti a distanza, parli molto, fai una lunga digressione sul metodo di valutazione, anche sulla valutazione in sé, come, in maniera molto insomma, critica. Ci puoi esporre? Di nuovo, o approfondire quello che dici nell'articolo, insomma, cosa ne pensi in generale della valutazione e della valutazione applicata a questa didattica a distanza? Allora, diciamo, dare voti secondo me è il modo più pigro di valutare. Valutare ovviamente fa parte della relazione educativa, ma è a patto che sia un'autovalutazione, cioè diciamo un dialogo. La valutazione funziona se è un dialogo, cioè sia il maestro, insomma chi insegna, sia chi apprende si mette in gioco e si mette in discussione. E questa è certamente una cosa utile. Dare i voti no, non è utile, nel senso che spesso cosa succede? Che inchioda il bambino fin dalla prima elementare dentro un ruolo. C'è una classifica, diciamo, è una classifica fatta tra diversi, che non ha nessun senso, perché cosa dà un voto? Dà un voto alla famiglia, all'origine, alla cultura presente nella casa, quanti libri ci sono, da che continente provieni. Insomma, mette tutto sullo stesso piano e questa non è un'assurdità, anzi è proprio un piccolo delitto, nel senso che spesso ferisce. E il bambino ferito, diciamo, che pensa di non sapere oppure di non essere capace di imparare, si inchioda dentro questo ruolo da cui spesso non riesce a uscire. Io sono molto critico sui voti. Naturalmente non è che se si istruisce con un giudizio, la cosa può essere sempre altrettanto banale. Il problema è molto più complesso, cioè nel senso che andrebbe sostituito il giudizio al voto a un esame attento delle difficoltà, esercizio per esercizio che si fa, una restituzione di cosa stai facendo, di cosa hai fatto. Quindi alcuni parlano, anche i documenti ministeriali parlano per esempio di valutazione narrativa, nel senso di restituire al bambino, al ragazzo, il senso e il processo di quello che ha fatto. Sì, suo E questo percorso. naturalmente invece è molto utile, insomma, il suo percorso, certo. Immagino che poi, tra l'altro, manchi anche proprio l'elemento interattivo tra ragazzi, che No, certo, poi probabilmente anche. diciamo nella didattica a distanza è particolarmente assurdo tutto questo perché che cosa si valuta? Si valuta un bambino che magari è aiutato dai genitori a casa, oppure uno che è solo, oppure uno che non riesce a concentrarsi perché non ha lo spazio vitale per farlo. Cioè, diciamo, si esalta, come tutto è stato un po' esaltato in questa situazione, si esaltano gli aspetti, in questo caso gli aspetti negativi dell'assidiare dei voti. Questo è il motivo per cui tanti insegnanti sono ribellati a questa cosa, no? Sono tanti quelli che sono pronunciati, sia singolarmente sia come collegi di docenti. Certo. Tu hai scritto un libro che si intitola I bambini ci guardano. Dici che la scuola dovrebbe essere un po' meglio della società che la circonda e altrimenti che cosa ci sta a fare? In che modo secondo te la scuola può fornire anche ai bambini che la frequentano una prospettiva diversa della realtà e può fornire strumenti per ripensare il mondo e riscrivere il mondo? Ah, ci sono due aspetti. Allora, uno, sì, ho scritto questa frase nei bambini ci guardano, un libro di Selleri, è uscito quest'anno. La scuola ha un compito costituzionale, fondamentale, di uguaglianza, uguaglianza potenziale, cioè si nasce diversi per condizioni sociali, per provenienza, per attitudine, e la scuola dovrebbe dare tutti. L'articolo 3 della Costituzione dice questo, no? Dare dignità a tutti, primo punto, rimuovere gli ostacoli, cioè diciamo, se ci sono ostacoli di varia natura, la scuola dovrebbe contribuire a rimuoverli, e il terzo punto è il pieno sviluppo della persona umana. Naturalmente questi sono obiettivi ambiziosissimi, però sono nella nostra Costituzione, quindi tutti ci dovremmo attenere a questo. E questo è il primo compito della scuola, no? Cioè fornire strumenti a tutti quanti. E in particolare chi è più deprivato, quindi diciamo un un aspetto, diciamo, di giustizia di base. Poi c'è l'altro aspetto, ancora più complesso e delicato, per esempio Pietro Calamandrei parla di questo, che è stato uno dei padri costituenti, che si è occupato in particolare della scuola, dice che la scuola dovrebbe essere una incubatrice di vocazioni, cioè dovrebbe essere il posto in cui uno scopre cosa vuol fare, cosa desidera, e questo è importantissimo, cioè per questo la scuola deve essere usare molteplici linguaggi, usare stimoli culturali di grande qualità, perché i bambini, i ragazzi devono essere messi di fronte a tutto ciò che la cultura e la società può offrire loro, la natura anche, cioè perché loro individuino il loro percorso. E se noi ci pensiamo, tutti noi abbiamo incontrato qualche insegnante, qualche, non tantissimi purtroppo, che ci ha aperto la mente, no? Aperto a un modo di guardare il mondo che poi ci ha influenzato nelle nostre scelte. Certo. Ecco, la scuola dovrebbe fornire tutto questo. Non si tratta tanto di imparare le discipline, ma imparare a conoscere il mondo attraverso le discipline, il mondo, gli altri e soprattutto noi stessi. C'è una bellissima frase di un psicanalista, Bion, che dice il problema è essere presentati a se stessi, cioè che spesso abbiamo bisogno di rimbalzare su un'opera d'arte, su un teorema, su una storia, per essere presentati a se stessi, cioè per capire di più chi si è. Questo è il ruolo fondamentale della scuola. Quando funziona la scuola apre la mente, come diceva Frank Zappa, diceva il cervello è come un paracadute, funziona solo se è aperto, la mente è lo stesso. Hai fatto una bellissima citazione e adesso ne faccio una anch'io, sempre dal tuo articolo, perché mi è piaciuta molto, diciamo, che è, cito proprio leggendo, è a questo che serve la cultura e dunque la scuola, a osservare ciò che accade fuori e dentro di noi, rimbalzando su opere d'arte o di scienza capaci di rendere la scena intima e la scena planetaria meno oscura, meno opaca. A me è piaciuto moltissimo, insomma, perché quello che è scritto sia della scuola che della cultura. E ti volevo chiedere, nella tua sfera, diciamo, più intima, da insegnante, come stai vivendo questi giorni e se hai assegnato dei compiti ai tuoi studenti, alle tue studentesse, e se ci vuoi condividere qualche, diciamo, particolare momento di questi ultimi due mesi, diciamo. No, allora, io purtroppo sono in pensione dall'anno scorso, ho insegnato per 40 anni, ma purtroppo adesso ho interrotto. Ma la mia compagna Roberta Passoni, che è una bravissima maestra, anche lei ha scritto dei libri, come a partire da un libro, eccetera, ha fatto esperienze molto interessanti, nel senso che lei cercava di far sì che i suoi bambini, c'è una terza elementare in questo momento, sì. Cercava di far sì che i suoi bambini stessero il meno possibile davanti al computer, cioè usassero la casa come un luogo di esplorazione. Io ho fatto anche una serie di webinar che si trovano nel sito di Indire, piccole scuole, molto interessanti, cioè nel senso che trattare la casa come un continente sconfinato. Allora c'è chi ha cominciato a cercare le fotografie vecchie, a ricostruirci storie, chi ha fatto parlare gli oggetti tra loro, chi ha fatto teatro, o chi ha guardato gli odori, insomma, ha fatto un racconto sugli odori della casa, insomma, cioè tutto può essere, tutto può diventare fonte di curiosità, anche il microcosmo domestico. Naturalmente questo era fare i conti con una sofferenza, perché per i bambini, per i ragazzi, questa clausura è stata durissima, insomma, questo sì, è ovvio. Certo. Però diciamo, la cosa interessante sempre per chi educa è pensare che in qualsiasi situazione c'è molto da imparare, ci sono sempre motivi di stupore, e anche nei rapporti reciproci, perché questo è il terzo punto che mi sono scordato di dire prima, la scuola è anche un luogo di creazione di comunità, questo è importantissimo, cioè non si impara da soli, si impara in un corpo a corpo con gli altri. Se io leggo un libro insieme a te, è molto bello che poi ne discutiamo, e tu sicuramente di quel libro hai visto delle cose che io non ho visto, e viceversa, e quindi quando si fa in gruppo c'è una costruzione culturale, no? Perché a scuola si costruisce cultura, non si trasmette, certo, quando funziona, naturalmente. Assolutamente, hai detto benissimo, e in realtà anche da quello che hai scritto nell'articolo emerge tutta la tua sensibilità, diciamo, e l'attenzione e la cura che ponevi, insomma, quando praticavi e comunque che hai per questo mondo. Tempo fa facevo anch'io dei progetti, diciamo, di educazione alternativa nelle scuole, e mi capitò di intervistare questa docente che mi disse: ma vedi Federico, per noi è pesante questo ruolo, perché ci viene chiesto indirettamente di essere, oltre che insegnanti, anche amici, genitori, psicologi quasi dei nostri alunni. E io in realtà sono molto d'accordo, nel senso che comprendo che sia necessaria una certa sensibilità, che tu trasmetti molto bene sia quando parli, insomma, che quando scrivi, perché penso che sia la scuola proprio la base, diciamo, della società, e l'insegnante quindi ha in relazione a ciò un ruolo fondamentale. E ti chiedo, come pensi, secondo te, che dovrebbe venire magari la formazione per diventare insegnante, o che tipo di caratteristiche, prima stavi accennando, che tipo di caratteristiche dovrebbe avere un insegnante, insomma, secondo il tuo punto di vista? Allora, la prima caratteristica è la curiosità, è una persona molto curiosa. Secondo, deve amare molto i ragazzi, i bambini, i giovani, quelli con cui lavora. Questo è anche molto importante. Ci sono insegnanti che non sopportano gli adolescenti, per esempio, e lavorano magari in un istituto tecnico, in un liceo, e non fa bene questo, naturalmente, perché se uno vede solo il difetto che ha quell'età, qualsiasi età ha dei difetti e dei pregi. Io sono vecchio, ho tanti pregi come vecchio, tanti difetti, ovviamente. Però uno deve un po' essere, voler bene a quell'età, se no non può fare l'insegnante. Il terzo è una curiosità intellettuale inesauribile, cioè io penso che la cosa più bella per un bambino è incontrare un adulto che ricerca, un adulto che non ha risposte su tutto, ma che continua a farsi domande. Questo è molto importante. E poi naturalmente la capacità di collaborare con gli altri, perché la scuola non si fa da sola, sei sempre in un contesto umano complesso, certe volte c'hai colleghi che ti piacciono, altri colleghi che non ti piacciono, però diciamo comunque con cui devi fare i conti, e devi saper fare i conti in modo costruttivo. Quindi, insomma, qualità umane non indifferenti. E poi naturalmente credo che bisogna avere una sensibilità a non tollerare le ingiustizie, diciamo. Questo è importante, cioè nel senso che la società è ingiusta, la natura è ingiusta, e la scuola deve essere un luogo in cui un po' si attenua questa ingiustizia, se no che ci sta a fare? Insomma, quello che dicevo quando dico deve essere un po' meglio della società, in questo senso, no? La scuola deve proporre un mondo che magari ancora non c'è o fatica a nascere, però un mondo migliore, insomma, perché il mondo è ingiusto, no? Lo vediamo tutti i giorni. Per esempio, faccio un esempio molto concreto. La scuola in Italia è stata sicuramente un luogo di inclusione dei figli delle famiglie immigrate, importante, molto importante. Se ci fosse stata la scuola, sarebbe il luogo pubblico sicuramente più inclusivo, tra luci e ombre, con molte difficoltà, però comunque ha lavorato per l'inclusione. Ecco, queste sono funzioni importanti, e chi ci sta dentro ci deve credere, insomma, non può essere assolutamente razzista, selettivo, pensare che alcuni hanno dei diritti e altri no, questo no, ecco, questo non può, sono caratteristiche che un insegnante non può avere. Certo. Oltretutto, in questo momento in cui viene molto valorizzata, diciamo, la parte di profitto delle nostre esistenze, anche solo nel modo in cui è stata condotta la ripartenza, il sistema scolastico, per come l'hai descritto tu, soprattutto, che è una visione, diciamo, di quando il sistema scolastico funziona come dovrebbe funzionare, ti insegna anche molto il valore dell'interdipendenza, che poi è quello che sta alla base anche alle dinamiche di solidarietà che si sono create dal basso, in contrasto magari anche a certe politiche o che sono andate a integrare le parti in cui la politica non poteva arrivare. Certo. Io a tal proposito, sempre partendo dal tuo articolo, volevo riprendere un po' il finale, poi dopo ti lasciamo, insomma, ringraziandoti per intanto ancora per la tua disponibilità, dove tu ti auspichi molto che la scuola possa essere ripensata, rifondata anche in maniera, insomma, consistente. Te la senti di darci in breve una tua visione di come, insomma, la scuola secondo te dovrebbe ripartire, dovrebbe essere riformata? Allora, l'anno prossimo festeggeremo i 50 anni della nascita del Tempo Pieno. Il Tempo Pieno fu molto importante, fu introdotto negli anni 70, doveva essere introdotto con la media unica già nel 60, ma ritardò di 10 anni. E che cos'era il Tempo Pieno? Era l'idea che tutti, soprattutto i più poveri di cultura, avessero diritto a un tempo disteso per incontrare, per formarsi, per acquisire conoscenze. Purtroppo il Tempo Pieno c'è in un terzo delle scuole in Italia, il 32%, dopo 50 anni ancora solamente uno su tre gode di questa possibilità. Allora, io vorrei che, ripensando la scuola, tutti sono accorti quanto è centrale la scuola, in modo un po' paradossale, insomma, perché è un po' come nell'amore, sono accorti quando non c'era più, insomma, come certe volte ci succede. E se la scuola è centrale, bisogna investire nella scuola, ma tanto, veramente tanto. Questo recovery fund di cui si parla, per me dovrebbe essere investito almeno il 20%, perché il futuro di questo paese è tutto basato su quanta ricerca, quanta università, quanta istruzione riusciamo a dare ai nostri figli. Tra l'altro, con un'aggiunta, noi stiamo scaricando sulle generazioni future un debito pubblico di proporzioni colossali, che peserà sulle loro spalle. Allora, dobbiamo pensare come risarcirli. L'unico modo di risarcirli è un'istruzione di qualità. Quindi investire tanto nella scuola e investire tanto nella formazione degli insegnanti, perché gli insegnanti hanno bisogno di formazione, hanno bisogno di ricerca, hanno bisogno loro stessi di mettersi in discussione e crescere, sia quelli che entrano per la prima volta, sia quelli che ci stanno da tanto tempo. Questo è l'auspicio che faccio, a partire da rivedere il tempo a scuola e anche rivedere gli spazi, penso che la scuola si può fare in tanti modi, in tanti luoghi, la città può essere... Esiste un progetto, diciamo, si chiama città educative in tutto il mondo, in cui proprio la città diventa luogo di apprendimento. La scuola diffusa, dobbiamo, diciamo. Sperimentare di più. E poi ricordiamoci che noi stiamo facendo scuola alla generazione di Greta, una generazione che chiede scienza e soprattutto chiede cambiamento. Cioè, la cosa forte, perché ha colpito così tanto l'immaginario giovanile in tutto il mondo, Greta Thunberg? Perché lei ha detto, se non cambiamo vuol dire che non abbiamo capito. Capire è cambiare. Questo è fondamentale. Allora, noi dobbiamo lavorare per il cambiamento, ma il cambiamento si ha naturalmente se c'è conoscenza, se c'è ricerca, se c'è la capacità di metterci in discussione e non accontentarci del mondo così com'è. Beh, che dire? Io sono molto tuo fan, insomma, sono... Sì. Hai guadagnato sicuramente due grandi fan e sostenitori. Potessimo tornare indietro, vorremmo che tu fossi il nostro insegnante di sicuro. Ecco. Assolutamente. Diciamo così. Ti ringraziamo. Ti ringraziamo tantissimo, Franco, per la disponibilità, per essere stato con noi. Ti facciamo in bocca al lupo a te e alla tua compagna per tutto, specie in questo momento. Speriamo veramente che la scuola possa davvero... vedere degli anni migliori a venire, insomma. Sì, ci auguriamo di risentire il tuo nome quando ti nomineranno ministro dell'istruzione. Ma magari. Ciao Franco, un abbraccione. Ciao. Buona giornata. Grazie. Ciao. A voi. Part of me won't agree, 'cause I don't know if it's for is the same thing to you. It's just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do? Adesso puoi dirlo. Dopo questa meravigliosa canzone che in Italia piace soltanto a Fred Fumagalli e forse a Fedez, abbiamo l'onore di introdurre il nostro secondo ospite di oggi. Dovevo introdurlo io? Comunque il nostro secondo ospite di oggi, che è già in diretta collegata con noi, è Maddalena Fragnito, che adesso ci dirà, io mi scordo sempre, nonostante mai la conosca da un paio d'anni. Una carissima amica, una carissima e grandissima attivista, l'ho vista più volte spendersi su qualsiasi fronte. Oggi è qui con noi per parlare del comitato di cui fa parte, che è Priorità alla Scuola. E Maddalena, eccoci qua, ciao. Non la sento. Non la sentiamo, vediamo se ci sente. Ah no, certo che non la sentiamo, ovviamente. Ci senti? Adesso vi sì, sento. E noi sentiamo te, perfetto. Vabbè, gli altri hanno sentito l'introduzione, spero anche tu, ma sì. Vabbè, insomma. Virginia, vuoi far tu la prima domanda, Maddalena? Ciao Maddalena, intanto benvenuta nei nostri problemi tecnici. Si sta molto bene qua, ci si può rilassare all'interno dei nostri problemi tecnici. Io partirei con una domanda che riguarda quello che tu hai vissuto in questi mesi di lockdown, essendo oltre che attivista, ricercatrice, lavoratrice, anche una mamma. E quindi come hai vissuto questi mesi insieme a tuo figlio, Fred, per cortesia, scusa, insieme a tuo figlio, e come hai vissuto l'obbligo, insomma, di dargli una continuità per quanto riguarda la sua istruzione, avendolo a casa con l'istruzione a distanza, cosa ha comportato per la tua vita da lavoratrice e cosa ha comportato in generale per la vita familiare, cosa comporta questa situazione per i genitori, ecco. Ok, allora anzitutto ciao a tutte e tutti, grazie per questo spazio. E, allora, la cosa è una domanda personale, iniziamo da qui. Beh, direi che la sintesi migliore è il burnout, nel senso che effettivamente tenere insieme, diciamo, tutte queste attività produttive e riproduttive è stato molto, molto impegnativo, no? E, nel mio caso specifico, io devo dire, mi ritengo assolutamente privilegiata, nel senso che ho una casa, ho un compagno che partecipa, però invece, anche riprendendo un po' le parole di Franco, rispetto alla sua fantastica compagna Roberta, che in qualche modo ha saputo, mi sembra di aver capito, come immagino molte altre persone, lavoratrici e lavoratori della scuola, in qualche modo interpretare, no, questo momento di complessità, quello che è successo a noi nello specifico è stato renderci conto di, da una parte, della impreparazione strutturale della scuola, chiaramente di mio figlio, rispetto a questa didattica d'emergenza; in secondo luogo, sulla propria pelle, capire che un bambino di 7 anni, e io direi anche, insomma, dagli 0 agli 11, fa molta fatica, no, a, in qualche modo, a a seguire questo tipo di didattica, anzi proprio si innervosisce e spegne, il gioco è spegnere il bottone, cioè toccare e spegnere il bottone rosso, e poi infine direi il fatto che appunto date questa analisi, la verità è che il nostro ruolo è stato problemi tecnici senza i quali questo programma non è tale, non è... Stavamo parlando con Maddalena, che stava tra l'altro dicendo delle cose parecchio interessanti, vorrei che Maddalena riprendesse il discorso da dove l'ha interrotto, ovvero tolta la parte diciamo più personale. Emotiva, personale, di come hai vissuto questo lockdown insieme a tuo figlio, qual è la riflessione più politica che è nata da questa esperienza? Allora sì, a parte che devo dirvi che siete sotto una maledizione, questo fateci una riflessione. Comunque no, riprendendo il discorso, quindi chiaramente ci sono dei problemi individuali che chiaramente poi hanno anche all'interno delle differenze, no? Che in qualche modo differenziano poi i diversi genitori e le diverse possibilità che ognuno di questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ha trovato all'interno delle proprie case. E quindi poi c'è una riflessione più generale che, come vi dicevo prima, è sempre un po' difficile cominciare perché è un tema veramente grosso, no? È un tema che tocca, diciamo, il welfare, il sistema di welfare in Italia, che in un certo senso in questi mesi, da una parte questa crisi ha in qualche modo evidenziato i tagli che si sono susseguiti negli ultimi 20-30 anni al welfare, per welfare intendo la scuola sicuramente, come anche la sanità, no? E dall'altra il fatto che, ed è anche per questo che abbiamo incominciato a mobilitarci, diciamo, le strategie che oggi vediamo per in qualche modo accelerare alcuni tagli e trasformazioni del welfare in sistema privatistico, no? Per esempio, una delle cose che mi sembra abbastanza evidente, poi ne parleremo meglio nel dettaglio, è che le ultime indicazioni governative sembrano un po' sottointendere questo aspetto, cioè da una parte siamo costretti in qualche modo a rallentare i tagli sulla sanità per ovvie ragioni, diciamo, di tenuta così delle piazze, visto l'evidenza, no, del fallimento, e quindi stiamo accelerando sul reparto, scusatemi il termine, scuola, no? Mm-hmm. Quindi ecco, io parlo di welfare anche perché, ricordiamocelo appunto anche rispetto alle differenze, no? Di fatto la scuola in questi anni è diventata una forma di welfare, no? Da diritto all'istruzione, dal luogo di uguaglianza, dal luogo di socialità, dal luogo di relazione, come giustamente Franco ricordava prima, siamo arrivati a un luogo che di fatto in qualche modo per esempio è un luogo che per molti bambini significa l'accesso ad almeno un pasto al giorno, significa l'accesso a prestazioni sanitarie di base, come anche un luogo spesso di fuga, no? Anche se per poche ore da situazioni di enorme disagio e o di violenza. Quindi per esempio in questo contesto qui, diciamo, le strategie che sono state messe in campo, le soluzioni che sono state messe in campo in questi mesi, che è chiaro, sono soluzioni di emergenza e per questo devono rimanere tali, chiaramente sono state del tutto insufficienti. Franco giustamente citava prima le difficoltà rispetto alla DAD. Mi piace sempre dare dei numeri anche per far capire visivamente che cosa ha voluto dire, diciamo, questa metodologia all'interno di un contesto sociale che è profondamente diverso, diciamo, dalle pubblicità, no? Quindi per esempio un dato molto grosso è che il 42% dei minori in Italia vive in condizioni di sovraffollamento, quindi immaginatevi le lezioni in una stanza, magari con tre bambini, con tre lezioni diverse e più genitori che probabilmente devono anche loro in qualche modo usare dei dispositivi per lavorare. Nel 38% delle famiglie non c'è un computer, E addirittura nell'8% delle famiglie italiane non c'è proprio l'infrastruttura wifi, no? E questo vuol dire sia che proprio non arriva, sia anche che ci sono state diciamo molte famiglie che hanno dovuto scegliere tra fare la spesa o pagare il wifi, no? Sì, sì. Questi sono dati che in qualche modo ci dimostrano come di fatto, chiaro, è stata un'emergenza, però dobbiamo anche renderci conto di come abbiamo catapultato in un certo senso su più o meno 9 milioni di studenti e studentesse e 6 milioni di famiglie, diciamo, una didattica che non ha tenuto conto di verificarne le possibilità e i mezzi di queste famiglie, no? E questa è una cosa su cui noi abbiamo molto insistito, diciamo, forse è stato anche il motore di attivazione iniziale, no? Di questo gruppo che abbiamo costituito ormai un mese e mezzo fa. Esatto, adesso infatti volevo anche dirti proprio di questo. Sabato scorso, il 23 maggio, c'è stata una prima manifestazione, insomma una prima protesta in molte città italiane di priorità alla scuola, indetta insomma da priorità alla scuola. Ci puoi raccontare cosa è successo, chi ha aderito e oltre, diciamo, quali sono state le istanze che sono state portate avanti oltre a quelle che hai già elencato? Sì, e oltretutto anche le modalità di protesta, soprattutto qua a Milano, in cui viviamo ancora, diciamo, se non in una zona rossa, in una zona più a rischio, sono state chiaramente anche quelle adeguate alla situazione. Com'è andata? Allora, sì, molto brevemente. Allora, priorità alla scuola, vi racconto una cosa che non in tanti sanno. Diciamo che prima di priorità alla scuola, un po' la gente che c'era aggregata, che veramente è gente, diciamo, molto sparsa per l'Italia e che in qualche modo si è allarmata su diverse questioni che hanno preceduto la questione scuola. Quindi il primo gruppo si era, diciamo, già conosciuto in quello che poi è stato sintetizzato un po' malamente dai giornali come l'ora d'aria, la mezz'ora d'aria dei bambini, no? Essenzialmente un po' di persone, genitori sparsi per l'Italia si era resa conto che dopo un mese di quarantena, insomma, questi minori non venivano minimamente considerati esseri umani, no? E che in nessun modo venivano citati, diciamo, nei decreti di partenza, eccetera. Sì. Esatto, in questi trattati che abbiamo avuto l'opportunità di leggere in questi mesi. Chiaramente la preoccupazione era forte anche, e soprattutto l'incazzatura, nel senso che è chiaro che i minori non sono considerati per delle ragioni molto semplici: anzitutto perché non votano, secondo perché non producono, no? Profitto, in modo sì, così, certo. Esatto. E quindi in qualche modo ci siamo sentiti di in qualche modo iniziare lì, no? Cioè dove sono finiti un quinto della popolazione italiana. Dopodiché poco dopo devo dire, ecco, quello che ci si è resi conto che tra le centinaia e centinaia di pagine e di emendamenti su le riaperture delle diverse attività produttive non c'era neanche una frase o un, diciamo, capitolo sulla scuola, no? Quindi la prima mossa che abbiamo fatto è stata quella di scrivere questa lettera il 18 aprile alla ministra Azzolina, che poi ha avuto molta risonanza, no? È stata firmata da circa 100.000 persone, e quindi in un certo senso effettivamente il titolo, cioè priorità alla scuola, probabilmente era molto giusto, cioè è una priorità, questa cosa qua, che è sentita da tantissime persone, ma di fatto non è assolutamente nei piani governativi. E fin da subito, diciamo, nelle nostre riflessioni, il fatto di non dare priorità alla scuola risultava in perfetta continuità con la battaglia precedente, no? Di nuovo, ragazzi e ragazze, bambine e bambine, del tutto tagliati fuori dai diritti civili e costituzionali. E no, come dire, anche lì ritorno sul welfare, non è una cosa nuova, nel senso che dobbiamo un po' avere l'onestà di dirci che da una delle scuole migliori del mondo, come anche uno dei sistemi sanitari migliori, pubblici intendo, del mondo, ci si è, diciamo, in qualche modo resi conto che questo sistema non esiste più. Basti pensare per esempio a quanto spende l'Italia del PIL, no, per l'istruzione, è un 3,6 rispetto al 5% degli altri paesi, no? Quindi riforma dopo riforma, diciamo, è stato smantellato un sistema di istruzione e sanità pubblica che comunque era stato costruito in maniera eccellente. E tra l'altro questa situazione di welfare di cui stai parlando ha delle ripercussioni non solo sui ragazzi e le ragazze che vanno a scuola, ma anche per le loro famiglie. In particolare, diciamo, siccome ci troviamo in un paese non del tutto avanzato per quanto riguarda la parità dei diritti, in particolare le donne, diciamo, le madri, le zie, le nonne si sono viste triplicare, duplicare la quantità di lavoro che già dovevano fare per portare avanti la famiglia. Nel caso di persone lavoratrici, la quantità di lavoro sulle spalle di questo genitore, diciamo, che spesso è una donna, è diventato quasi insostenibile in questo momento. Sì, guarda, per me la cosa, diciamo, quello che ha colpito moltissimo nell'apertura dell'annuncio, no, della fase 2 di Giuseppe Conte, oltre a di nuovo mettere in contrasto il diritto alla salute e il diritto all'istruzione, che è una trappola abbastanza conosciuta in Italia, si chiama Taranto per esempio, sono due punti. Il primo è ancora constatare che appunto questi tagli al welfare poi cosa vogliono dire? Vuole dire che le famiglie diciamo si assumono le responsabilità, chiaramente le famiglie più ricche poi le delegano a delle figure di cura terze, invece le famiglie meno abbienti si sobbarcano una quantità di lavoro incredibile. E quindi per esempio nel discorso di Conte sulla fase 2 a me ha colpito molto il fatto che dopo due mesi in cui sono morti in modo abbastanza, come dire, esplicito una specifica così parte della popolazione che sono i vecchi, quindi anche i nonni e le nonne, io non so se vi siete resi conto, ma lui, non accennando minimamente alla scuola, ha però fatto un passaggio interessante che è stato quello finalmente di liberare, no, l'incontro tra nonni e genitori. Quindi da una parte ha in qualche modo ricondannato i nonni e le nonne sopravvissute a probabilmente riprendersi il virus e dall'altra parte ha naturalizzato in modo, come dire, straordinario il fatto che non mettere come priorità la scuola e non parlare di riapertura della scuola laddove si stava riaprendo tutto, voleva dire appunto che uno dei due genitori in qualche modo diciamo era normale, no, che restasse a casa, no? È chiaro che all'interno del contesto italiano, considerando non solo, diciamo, la discrepanza tra stipendi, discrepanza di genere tra stipendi, è chiaro che in una situazione di crisi chi rimane a casa è chi ha lo stipendio più basso e quindi di fatto in Italia le donne. E quindi questo è un altro elemento, diciamo, veramente abbastanza cruciale. Però io aggiungo una terza realtà che è stata fortemente colpita non solo dai tagli al welfare degli ultimi anni, ma anche oggi, che sono appunto proprio i lavoratori e le lavoratrici all'interno della scuola, sia certo, i docenti, maestre, ma anche appunto i lavoratori ATA, per esempio. Sì, no? Sì, sì. Quindi, per esempio, partiamo dal fatto che in Italia c'è il 30% di tutto il corpo, diciamo, scolastico che è precario. E in Europa la media si aggira tra il 12 e il 15, quindi stiamo parlando del doppio, non di pochi punti percentuali sopra, cioè stiamo parlando del doppio, cioè che noi costruiamo la scuola attraverso il precariato, ovvero di gente che viene lasciata a casa a giugno, quindi non guadagna uno stipendio, diciamo, durante 2-3 mesi dell'anno e viene ripescata a settembre con queste formule abbastanza criticabili, a settembre in probabilmente altre zone d'Italia e o sicuramente altre scuole, alla faccia, diciamo, di qualsiasi ragionevolezza sulla continuità didattica, ma anche a nostro avviso relazionale, no? tra persone, bambini e così e docenti. Assolutamente. Certo, Maddalena, ci puoi sintetizzare che cosa chiede priorità alla scuola, magari in macro punti, cioè rispetto a quello che anche quello che invece adesso la ministra Azzolina sta cercando di portare avanti? Esatto, no, allora vado un po' veloce perché mi sono dimenticata poi di dirvi cosa è successo il 23. Esatto, il 23, sì. Quindi dopo il fatto che la lettera è una lettera così, diciamo, in qualche modo sostenuta, non ha mai ricevuto una risposta, allora abbiamo deciso il 23 di scendere in diverse piazze italiane, che sono state più o meno 20. È stata un po' la prima grossa nazionale manifestazione dopo Covid, e chiaramente, oltre alle richieste che adesso dico, diciamo, anche è stato interessante il fatto che ogni città ha un po' anche modulato, a seconda delle condizioni, chiamiamole ambientali, certo, il tipo di protesta, no, che si sentiva di fare. Allora, per esempio, qui a Milano, dove sappiamo che i dati non sono in chiaro, nel senso che c'è, ora non voglio entrare in questo argomento, però insomma c'è una fortissima criticità nella gestione della crisi, abbiamo deciso di in qualche modo protestare in un modo diverso, che però devo dire dal mio punto di vista è stato ugualmente forte, nel senso che abbiamo fatto questa pazzia di pubblicare il link di una chat su Facebook, e da lì sono entrate 200 tra genitori e maestri, e quindi di fatto abbiamo coperto 120 scuole quindi facendo azioni piccole di 10 persone che andavano davanti a ogni scuola, proprio, certo, per, diciamo, evitare qualsiasi tipo di assembramento, però abbiamo scelto appunto, anche in linea con tutte le altre piazze, questa frase da scrivere su questo striscione, che poi abbiamo appeso davanti alle 100 scuole, di cui, sì, ci sono delle foto molto belle. La frase è istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, che è la frase, diciamo, di Gramsci, no? Scritta sul frontespizio di Ordine Nuovo nel 1919. Commovente anche un po', posso dire. Assolutamente. Dal mio punto, sì, di devo vista. Dire, sì, le foto sono molto belle, cioè quando poi le ho riviste dopo, insomma. Sì, sì, ma anche passare più per la città in questo momento e vedere ancora quegli striscioni appesi. Vero, è l'ho visto un paio l'altro ieri, sì. E quindi, insomma, Maddalena, quali sono adesso le prospettive di questa lotta? Nel senso, anche secondo, seguendo come si sta muovendo la nostra bravissima ministra della pubblica istruzione, fantastica amica di Diego Fusaro, eccetera. quali sono i prossimi passi? Cioè, in vista della riapertura forse delle scuole a settembre, che cosa succede adesso? Allora, noi il 23 abbiamo chiesto tre cose molto chiare, che erano, diciamo, l'aumento del personale nelle scuole e la loro precarizzazione. Per personale, ripeto, appunto, sia insegnanti sia personale ATA, e diciamo la riduzione del numero degli alunni per classe, che non è solo una questione di possibili focolai, ma è proprio una questione anche lì strutturale, classi sovraffollate per mancati investimenti da anni e mancate assunzioni. E infine abbiamo chiesto, diciamo, la possibilità, come sta succedendo tra l'altro in altri paesi, di pensare anche a nuovi spazi, no? È la cosa anche che diceva Franco prima, no? Un'idea, certo, di scuola anche più diffusa, anche più in concerto con altre istituzioni culturali, per esempio penso a Copenaghen, dove ci sono, vedevo queste foto di queste classi di liceo, direi, che facevano la lezione di italiano nel museo, cioè, sì, insomma, anche cose che in qualche modo ripensare la scuola nell'emergenza, attraverso l'emergenza, anche con forme, diciamo, nuove, è anche un modo, no, per quello che sta succedendo invece è un disastro, nel senso che le nostre preoccupazioni si stanno avverando tutte. E, per esempio, di ieri è questo famoso documento del Comitato Tecnico Scientifico, che è un comitato che l'Azzolina in qualche modo ha voluto, composto da 18 esperti che in qualche modo guidano questa riapertura delle scuole. E in questo primo documento, perché poi l'ultimo sarà consegnato al governo il 31 luglio, in qualche modo emergono tutte le criticità che avevamo, non era molto difficile prevedere, però previsto. Anzitutto, per esempio, si dà mano all'autonomia spinta. Devo dire l'autonomia spinta, che In qualche modo non c'è più un piano unitario rispetto all'Italia sulla riapertura delle scuole, ma ognuno fa un po' da sé, no? E quindi di fatto è uno scarico di responsabilità, diciamo, a livello di ogni scuola, che chiaramente vorrà dire, diciamo, in qualche modo radicalizzare, no, le disuguaglianze sociali, cioè le scuole che avranno le condizioni in qualche modo di riaprire lo faranno, quelle che non potranno farlo non lo faranno o lo faranno a metà. Un'altra cosa che notiamo nel documento è che non c'è nessun piano straordinario di assunzioni, per esempio cosa che è successo nella sanità, no, a partire dall'emergenza. Certo. Ma cioè di fatto diciamo i numeri rimangono praticamente gli stessi e quei pochi posti in più che vengono assegnati l'anno prossimo sono solo per un anno, quindi sono, diciamo, contratti a tempo determinato, tra virgolettato eccezionali, e che quindi non vanno a risolvere, nonostante le richieste, diciamo, il potenziamento del personale e la loro, appunto, regolarizzazione in un certo senso. Un'altra cosa che secondo noi è gravissima, e su questo si giocherà tutta la partita di giugno, che io lo dico qui, ma sarà, diciamo, a nostro avviso giugno sarà, diciamo, sarà il momento in cui si deciderà la scuola del futuro, e quindi per questo stiamo provando a tenere, a continuare con la mobilitazione, a continuare queste 500 chat sparse per tutta Italia. E, dicevo, la cosa molto grave è che quando si parla in termini di sicurezza, di nuovo, e questo noi dalla Lombardia lo conosciamo molto bene, la sicurezza che viene espressa in questi documenti è di nuovo una sicurezza che è tutta basata sull'autoresponsabilizzazione, no? Sì. E quindi si parla di sicurezza più legata al controllo che di sicurezza sanitaria, no? Come tutta la fase 2 d'altronde, esatto, è stata gestita. Esatto. E quindi anche nelle scuole sta avvenendo la stessa cosa, quindi si parla di diciamo impossibili, diciamo, cioè gli distanziamenti, l'uso di mascherine su bambini che sappiamo diciamo fanno peggio che meglio, e non si parla minimamente né di scanner termici né invece di tamponi, piuttosto che di un prepensionamento volontario per i soggetti fragili, no? Certo. Quindi non si mettono in campo né situazioni, cioè, diciamo, soluzioni lavorative, vedete il pensionamento, né soluzioni sanitarie, cioè quindi di nuovo siamo tutti responsabili. Per esempio, un docente che ha di fronte un ragazzo con diverse necessità educative sarà, diciamo, la sua scelta, no? Se tenere la maschera, sarà una scelta individuale e di etica personale, no? Piuttosto che diciamo, le entrate scaglionate vanno tutte nella direzione di una riduzione delle ore di presenza. Allora, Franco prima parlava, no, della grande rivoluzione delle 40 ore, cioè il tempo pieno, no, quando diventa legge nel 71, che era legato all'obiettivo, no, di permettere a tutti i bambini e le bambine, in qualche modo, a prescindere dalle differenze così di provenienza, di far parte di un progetto integrato. Certo. Ecco, lì noi ritorniamo a settembre sicuramente con una scuola dimezzata, quindi si torna indietro oramai cos'è, 50 anni. Quindi sicuramente quello su cui noi insisteremo in questo mese è che bisogna, oltre ovviamente a stanziare una quantità di soldi che non è stanziata nelle scuole, è invece stanziata nelle, come dire, nelle attività produttive, quindi continuare a chiedere che ci sia una priorità, cioè priorità al diritto costituzionale all'istruzione invece che priorità alle 20 marche di biscotti da riattivare, quindi anche una riflessione, come dire, su che futuro ci aspetta. Dall'altra, sicuramente quello su cui diciamo insisteremo molto è che bisogna cambiare il punto di vista, cioè noi abbiamo visto anche all'interno, diciamo, delle nostre lotte tantissime divisioni, no? In queste chat, in questi gruppi che nonostante stiano crescendo comunque ci sono tantissime, insomma, la paura ha generato tantissime divisioni. Certo. Tra genitori e insegnanti, genitori e genitori, ma anche insegnanti e insegnanti, no? Allora, quello che noi intorno al concetto di sicurezza, ovviamente, perché giustamente un insegnante insegnante che conosce la sua scuola e le problematicità della sua scuola ti dice: io non ritorno a settembre che so che non mi danno neanche una mascherina, faccio un esempio, no? Sì, sì. Dall'altra parte i genitori, dicevamo prima, cioè, stanno di fatto lavorando a gratis e si stanno inventando maestri e non sanno più che pesce pigliare. Quindi il ribaltamento che noi chiediamo è che le scuole, invece di diventare un problema di sicurezza, diventino un presidio sanitario territoriale, no? Cioè ogni plesso deve poter assistere il personale pubblico, no? La gente che lavora lì, certo, garantendo l'unica cosa che si deve garantire quando si parla di problema sanitario. Lo screening. Cioè, se c'è un terremoto, per esempio, c'è un terremoto, io penso a ricostruire la casa, no? Non a speculare se c'è bisogno del, se è meglio il microonde o il forno a gas, penso a ricostruire la casa. Allo stesso modo, se c'è un'epidemia, io devo prendere il modello che sta funzionando in altri paesi, che purtroppo qui non stiamo applicando, cioè test, tracciamenti, tamponi, e portarlo nei luoghi dove c'è affluenza, no? Quindi noi chiediamo che le scuole, invece che, diciamo, essere strumentalmente state usate, come anche i corpi dei bambini, attenzione, no? Erano gli untori sin dall'inizio, come luoghi di potenziale contagio, invece chiediamo che diventino gli unici presidi sanitari territoriali di cui possiamo disporre, già che non ce ne sono altri, perlomeno dalla prospettiva lombarda. Assolutamente d'accordo, è assolutamente sensato. Come al solito, prima che tu diventi ministro della pubblica istruzione, chissà quante azzoline dovremmo sopportare. Madonna. Ma io e Fred facciamo a te, diciamo, a tutte le mamme, i papà, gli insegnanti, le persone che lavorano nel mondo della scuola, portiamo il nostro supporto, perché appunto abbiamo deciso di dedicare questa puntata a questo tema, perché se nel momento in cui noi vogliamo immaginare un mondo nuovo, la prima cosa da cui dobbiamo partire è l'istruzione e la scuola pubblica. E quindi, insomma, grazie mille Maddalena per il tuo intervento. Madu, solo velocissimo, chi volesse seguire iniziative di priorità alla scuola e se ci sono altri appuntamenti già fissati, diccelo adesso, perché siamo veramente in chiusura, e poi ti ringraziamo davvero e ti salutiamo. Allora, Priorità alla Scuola ha una pagina Facebook, siamo un po' arretrati, che si chiama Priorità alla Scuola, lì puoi scrivere, diciamo, un messaggio e verrai reindirizzato in una chat o un sottogruppo territoriale, e questo è un po' il modo per entrare a far parte del gruppo e ad attivarsi. Ok, grazie mille, e adesso ti salutiamo e ci lasciamo con la nostra sigla di chiusura, che è la solita, Se ci sarai, di Cesare Cremonini. Vediamo la linea, tra l'altro. Ah, degli studenti, tra l'altro, degli studenti che dicono di essere molto anche emozionati perché è la loro prima trasmissione, studenti autonomi da Napoli, e quindi li lasciamo adesso. In bocca al lupo, ragazzi. Grosso in bocca al lupo, ragazzi, siete il nostro futuro, ragazzi e ragazze. Non abbiate, ribellatevi, soprattutto ai problemi tecnici, perché vi auguriamo di non averne quanti ne abbiamo noi. Ciao, ciao, grazie a tutti. Ciao Maddalena, ciao. Ciao. Milano ha bisogno di tornare a lavorare. A notte buia calerà oscura.